La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле-еле, вершок за пять минут. Aveva 76 anni. Era al porto di Atene, stava attraversando la strada. È arrivata una motocicletta, lo ha investito, lo ha ucciso. Uno dei tantissimi omicidi della velocità che poi vanno impuniti. Quell'uomo era Theo Angelopoulos, grande maestro del cinema, autore di capolavori come La recita o Lo sguardo di Ulisse. Con questa indipendenza quasi oltraggiosa rispetto allo star system, come quando prende un attore di fama internazionale come Harvey Keitel e lo inquadra sempre in campo lungo, lungo, oppure di spalle, come una figurina del paesaggio. Theo Angelopoulos era anche un uomo di coraggio. Durante il regime dei colonnelli si oppose e fu mandato in esilio. Era alla metà delle riprese del film L'altro mare, un film sulla crisi greca, interpretato da Tony Servillo e prodotto da Amedeo Pagani, una persona a me più che cara, innamorato del suo cinema e affezionatissimo amico, che negli ultimi 20 anni è stato il produttore di tutti i suoi film. A Theo Angelopoulos è toccato quello che è il terrore di ogni artista: morire prima di finire l'opera, che si configurava come la più importante della sua vita, costellata di capolavori. Il film è un atto d'accusa contro il sistema finanziario che ci sta strangolando. Malcolm Pagani, che lo conosceva bene, gli ha dedicato un saluto commosso sul Fatto Quotidiano, dove scrive quando da ragazzino il padre lo obbligava a vedere i film di Angelopoulos. Tornava a casa, gli occhi febbrili, urlava per le scale: «Venite a vedere il capolavoro di Theo, è sublime! Silenzio! Silenzio adesso!» E infilava i VHS nel videoregistratore. Scene mute o in lingua originale, quando andava bene. Piani sequenza lunghissimi. Attori celebri visti di spalle, comparse sconosciute in primo piano e una unicità di tocco che per noi, cioè per lui quando era ragazzo, vitellone in vitro, adolescenti cresciuti, come suggeriva Nanni Moretti in Aprile, con Starsky & Hutch, rappresentava poco meno di un supplizio. Lentamente, a tradimento, il vecchio greco ci conquistò. La musica celestiale di Eleni Karaindrou, l'attenzione agli ultimi, ai viaggi impossibili, ai capitani Acabe a caccia di una via d'uscita dal labirinto. L'altro mare, il film sulla Grecia che stava completando in questi giorni con Tony Servillo, covava la speranza di riuscire a cambiare il nostro sguardo su una crisi non solo quantitativa, una sognante lezione contro il capitalismo come religione, evocato da Benjamin. E in questa morte c'è una simbologia da tragedia greca, come la malvagità degli dèi, di più la vendetta. Con la hubris di un uomo che, come in passato, aveva combattuto i colonnelli, in questo film si opponeva all'unico dio, il denaro, in nome del quale, per la prima volta nella storia, il mondo è diventato monoteista. Saluto Theo Angelopoulos, ultimo tragico greco e uomo buono. Работа есть работа, работа есть всегда. Хватило б только пота на все мои года. Ho ricevuto un'email senza firma, però l'indirizzo è guapo, allora ti chiamerò guapo. Questa lettera è brevissima e dice: ma che ha fatto di male Giannino per meritare questa dedica? E si riferisce a questo. Un paio di settimane fa, leggendo un brano di un mio saggetto romanzesco su Gabriele D'Annunzio, con Gloria Guerrera lo avevamo dedicato a Oscar Giannino. A noi il perché sembrava ovvio. Tra tanti Cafon, tra tanti Sciattoni, ci sembrava che Oscar Giannino fosse l'unico che trattasse il proprio abbigliamento come un'opera d'arte. Però Non abbiamo dato spiegazioni, perché abbiamo avuto la debolezza di pensare che saremmo state banali, che sarebbe stato ovvio. Invece no, quando abbiamo letto il tuo messaggio ci siamo rimaste malissimo. Non pensavamo che si potesse fraintendere. Ovvero, ho capito come l'hai capita tu, come se volessimo apparentare il Giannino ai vizi e alle disfatte di D'Annunzio, del quale, peraltro, oltre che con ironia, si parlava con moltissima simpatia. E quindi sapere che si potesse interpretare come hai fatto tu è stato un colpo. Non solo perché entrambi abbiamo per Giannino un rispetto infinito, non per la sua onestà e sapienza e per lo spirito ludico che esprime con la sua eleganza, ma perché Giannino è uno che non soltanto ti ammaestra, ma si fa volere bene. E né io né Gloria avremmo mai voluto intendere qualcosa di meno che amabile nei suoi riguardi. Ma non solo per questo, per qualcosa di più che attiene all'immaginario. C'è come un richiamo a qualche infanzia misteriosa. È come se appartenesse a qualche remota stanza dei giochi. Come se fosse un fanciullo. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Mi piacete tutte, ma sono grasso e ho molta difficoltà ad accostarvi. E più ho difficoltà, più mangio. Purtroppo ho uno strato di grasso intorno alla pancia, sembro fatto di ruote. Sono innamorato. Lei è magra, bella, elegante. Abita nel mio quartiere e fa la fotografa. Al massimo mi prende come soggetto. Mi sono anche studiato un pretesto per bussare alla sua porta e, tra l'altro, per la strada già mi sorride con una certa simpatia. Ma poi la paura di essere preso in giro è troppo forte. Sono già andato due volte tutto lavato per incontrarla, ma poi mi è mancato il coraggio. Sotto casa sua ci sta la pasticceria e mi sono fermato lì a mangiare quattro paste. Una donna può amare un uomo grasso. Michele. Come abbiamo detto tante volte, una donna può amare chiunque. Sono stata grassa, prima che qualcuno mi amasse, perché alla fine qualcuno mi amò. E ricordo negli orribili pomeriggi, quando non mi invitavano alle feste, quando quello che mi piaceva usciva con un'altra. Ricordo il ristoro essenziale delle paste alla crema. Ricordo come foderavo l'angoscia di zuccheri lacrimosi e di ridenti canditi. Ricordo che senza forse sarei morta. Sono stata grassa come voleva il corpo, che è sempre il più sapiente e sa che cosa serve per sopravvivere. La droga gastronomica è la più facile. Difficili le dosi. Michele, cerca di non restarci morto in una di queste mangiate sotto casa di lei e un giorno o l'altro, magari a stomaco pieno, sali le scale. La guardiana del faro. Adesso dalla canzone a Erika, Erika nella vita. Qui Capitaneria di Porto, come richiesto la cantautrice Erika Mu è in collegamento. Pronto Erika? Ciao Barbara, salve. Io sono venuta a sentirti, ecco chi è per me Erika Mu. Erika Mu è una creatura suavissima, è una ragazza degli anni 50. Io sono stata lì, non c'era da sedersi. Allora io non sapevo dove mettere la mia vecchia carcassa, anche perché sedersi per terra, magra come sono io, e però dopo un po' me ne sono dimenticata, perché mi sembravi qualcosa come una gallinella che vola, non so, però o uno scoiattolo che sta fermo e ti guarda con quel cuoricino che batte. Tutto quello che facevi tu in scena, i gesti, l'inflessione della voce, come ti rivolgevi al pubblico, non era mai quello che uno si poteva aspettare. Non era mai qualcosa di costruito o di già visto. C'era una specie di cordialità, no? Di cordialità, ma verso te stessa, chiaramente anche qualcosa di ridevole, no? E nello stesso tempo di così raccolto. Penso che comunque generalmente l'apertura e la chiusura che si hanno nei confronti delle persone nel momento in cui tu decidi di esprimere qualcosa di tuo, di farlo per esempio con delle canzoni, sono due costanti. Cioè, da un lato tu hai voglia di dire sempre tutto agli altri, se no che sali a fare sul palco? Cioè, se sali devi anche essere pronto a dire tutto quello che hai in mente e a comunicare con gli altri. Però da un certo lato, almeno io personalmente nelle canzoni per lo più parlo di cose mie molto private, che non avrei il coraggio di dire, di esprimere così se non avessi questo escamotage delle canzoni. Quindi è sempre un equilibrio molto difficile tra quello che vuoi mostrare di te è quello che non vuoi mostrare. Comunque sei strana, originale, lunare, e tuttavia ci sono certe cose nelle quali tutte ci identifichiamo, come quando appunto compri il primo vestito che provi in un negozio che a volte sta bene al manichino e non a me. Questo sì. ci prende tutte questa cosa qui. Una tua risposta enigmatica e interessante a un'intervista che ti ha fatto la Marinella Venegoni. Lei ti parla dell'8 marzo, dice: cosa pensi di questo, del mondo femminile? Tu rispondi: io non mi considero femmina, non mi voglio sposare e fare la casalinga. Mia mamma mai ha cucinato in vita sua, e mia nonna pure. Siamo tre donne un po' così. Io sono progressista, ma conservatrice nelle cose che non faccio. Non sono battezzata, ma quando vedo passare una processione dico: speriamo che duri, che continuino a farla. È una cosa molto malata, ma... No, che malata, anch'io non vorrei mica lo sterminio dei preti, voglio dire, mi piace l'idea che ci siano. Ogni tanto anch'io, se c'è una messa cantata, mi metto nelle ultime file e sento... È una cosa che mi succede in generale verso molte cose, questo divario tra voler cambiare ma allo stesso tempo restare sempre ancorati a qualcosa, che per esempio è la religione, che io non pratico, non seguo, però d'altro lato... Quando vedo una chiesa o vedo appunto questi riti in cui tutte le persone comunque sono insieme e fanno qualcosa, mi piace, vorrei che continuassero per sempre, mi dispiace che si perderanno nel tempo. E questa cosa mi succede anche con le manie dell'infanzia. La canzone è, dice proprio: io bacio ancora le ferite per far andare via il dolore. E in realtà tu sai che non passa, però ci sono quei gesti automatici che non vorresti perdere. In realtà... Il cambiamento mi ha sempre fatto questo strano effetto di paura, ma allo stesso tempo anche di volontà di compierlo. Quindi spesso mi capita di essere conservatrice nelle cose che non faccio, che è una cosa molto egoista e cattiva, perché tu dici... Ah, non è cattiva, che... direi fortemente, fortemente civile, fortemente politicamente corretta, tra l'altro. Non che tu lo faccia apposta, ma è così... E comunque hai 20 anni e hai cominciato a 5. Raccontaci questa piccolissima Erika che, guardando in alto verso gli enormi grandi, dice: io voglio studiare musica, io voglio studiare canto. Com'è andata? Quando avevo 3-4 anni, così, restavo a casa prima di andare all'asilo con mia nonna, e in TV c'era un meraviglioso programma della Rai che era I Fatti Vostri. E in questo programma c'era una musicista che suonava il violino e si chiamava Erika. Il giorno io la ritroverò, però sì, lei è stata molto importante per me, perché siccome all'asilo, a scuola, tra gli altri bambini che conoscevo, non c'era nessuno che si chiamasse come me, quando io l'ho vista mi sono praticamente immedesimata in lei ed ero convinta che quindi il destino delle bambine che si erano chiamate Erika era di fare le violiniste. Ho chiesto ai miei genitori di cominciare a studiare violino, però siccome ero piccola, a scuola di musica mi indirizzarono verso la propedeutica musicale in genere. E durante il saggio di propedeutica musicale vidi una donna e dissi: mamma, dall'anno prossimo voglio fare lezione con lei. E questa donna era un'insegnante di canto, e da lì è nato tutto. Senti, tu piaci ai ragazzi? Come? Piaci ai ragazzi? In che senso? Sì, piaci. Maschi, femmine, No, ragazzi maschi. Ah, cioè no, in quel senso? Sì. Beh, spero di sì, a me piacciono, perciò cerchiamo di trovare... E senti, ma piaci di più adesso che canti? Sì, perché quello è un biglietto, una visita amorosa, è un tramite di seduzione incomparabile, no? Sì e no, anche se adesso i ragazzi a cui piaccio sono delle figure molto lontane nella mia vita rispetto a quelli a cui piacevo quando ero più piccola, che mi conoscevano sinceramente. Senti, in un'intervista hai risposto alla domanda: che tipo di ragazza è? Hai risposto: sono una donna in costruzione, ci sto lavorando. A cosa stai lavorando, Erika? Tutti mi dicono che ho sempre questa forte personalità, che quando sono sul palco sono tutti ammaliati, contenti, i movimenti, le cose, i gesti, gli sguardi, però io d'altro canto... Ogni volta che sono a cena, che ne so, con delle persone più grandi, con delle ragazze più grandi, con delle donne, cioè ammiro di loro una sicurezza, un modo di porsi che io non sento di avere, una profonda consapevolezza di chi si è, cioè che si trasmette subito agli altri, che gli altri assorbono. E io ho sempre ammirato questo, perciò per me essere una donna in costruzione è arrivare al punto in cui tutte le parole, tutte le cose dette dagli altri non mi equilibreranno più, cioè ad essere così certa di alcune cose da non dovermi attendere a tutto quello che sento, a tutto quello che gli altri temo o so che pensano di me. E tu hai 20 anni. Hai 20 anni? 21. E sei, sì, perché sei del 90, certo. E vivi in Italia. Appartieni alla fascia, una delle fasce delle popolazioni più sacrificate della politica. Come ti senti in questo paese in cui appunto i giovani traballano? Noi siamo una generazione abbastanza rassegnata a sapere che non, almeno adesso, per come sono le cose, difficilmente avremo un futuro come quello che abbiamo visto, che è il presente dei nostri genitori. Un sacco di mie coetanee, magari un po' più grandi, che hanno anche voglia di sposarsi, che hanno anche voglia di fare un figlio. A volte è assurdo, perché io ho sempre pensato che nella vita bastava avere la volontà di fare qualcosa e la si poteva fare, che problema c'è? E invece adesso comincio a confrontarmi con la realtà che certe volte non lo si può fare, perché ti scontri con dei problemi pratici talmente grossi che non è possibile realizzare quello che vorresti. Questa cosa mi fa sicuramente molto arrabbiare, come mi fa arrabbiare vedere questi politici che hanno sempre un'età media super elevata. E... sì, c'è come una dittatura di vecchioni. Però d'altro canto io sto qua. C'è una mia scelta, comunque c'è un'attrazione forte nei confronti di questo paese, che però ha un sacco di problemi, un sacco di falle, e io veramente mi sento una privilegiata ad avere un lavoro a 21 anni. Per sì, e poi soprattutto a poter esercitare il tuo talento, perché quando tu mi dicevi prima qualcosa che non si può fare, vuol dire non possiamo esprimerci, il che vuol dire... Sì. Uccidere praticamente una generazione di giovani, una, due, tre. Ma la cosa che a me proprio mi fa venire i brividi, cioè, è sentire le persone che dicono: io un figlio lo farei anche domani, però non lo posso fare. Più ancora della creatività, del talento. Ma sì, perché poi ti mettono anche una mentalità da autocensura, e quella è la cosa tremenda, che appunto ti fregano la possibilità del sogno, la possibilità del progetto. E se ti fermi ad asciugare con la carta i miei pensieri, scrivici poesie d'amore, se ti fermi ad asciugare le mie lacrime, strappa forte la carta e poi vai via. Quando si parla dei nostri giovani, della situazione disperante in cui sono stati messi da adulti e politici irresponsabili, lo ritrovo in questa poesia del 1932, scritta da Kenneth Patchen. Collegio all'angolo della strada. L'anno venturo, l'erba della tomba ci coprirà. Ora siamo qui e ridiamo, guardando passare le ragazze, scommettendo sui cavalli perdenti, bevendo ginepro a buon mercato. Non abbiamo niente da fare, non un luogo dove andare, nessuno. Ci studiamo di darci l'aria da giovanotti. Non sentiamo niente dietro le nostre facce, né in un verso né nell'altro. Forse non saremo del tutto morti quando morremo. Non fummo mai nulla tutto questo tempo, neanche soldati. Siamo gli insultati, fratello, i giovani desolati, sonnambuli in una terra oscura e terribile, dove la solitudine è un coltello sporco puntato contro la gola. Gelide stelle ci guardano, compagno. Gelide stelle. E le puttane. E se ti fermi ad asciugare con la stoffa i miei pensieri, cucici poesie d'amore, cucici poesie d'amore. Se ti fermi ad asciugare le mie lacrime, taglia la stoffa in pezzi e poi vai via. E se ti fermi ad asciugare con lo straccio i miei pensieri, strizzalo poi bene in un secchiello. La guardiana del faro. La verità, vi prego, sull'amore. Alcuni dicono che l'amore è un bambino e altri che è un uccello. Alcuni dicono che fa girare il mondo e altri che è un'assurdità. E quando ho chiesto cosa fosse il mio vicino, sua moglie si è seccata e mi ha detto: ma cosa sono queste domande? Può somigliare a un pigiama? O al salame piccante quando non c'è da bere? Per l'odore può ricordare un lama o avrà un profumo consolante? È pungente a toccarlo come uno spino o lieve, come un piumino? È tagliente oppure è liscio e soffice? La verità, vi prego, sull'amore. Nei libri di storia se ne parla solo in piccole note a fondo pagina, ma è un argomento molto comune sulle navi da crociera. Vi si accenna nelle cronache dei suicidi e l'ho visto scribacchiato sulle copertine degli orari ferroviari. Ha il latrato di un cane affamato o il fracasso di una banda militare? Si può farne una buona imitazione con una sega o con un pianoforte Steinway da concerto? Quando canta alle feste è un finimondo? O apprezzerà solo la musica classica? E la smetterà quando si vuole un po' di pace? La verità, vi prego, sull'amore. L'ho cercato nei chioschi del giardino, ma lì non c'era mai stato. Ho anche esplorato le rive del Tamigi e certo non era nel pollaio e nemmeno sotto il letto. Saprà fare delle smorfie straordinarie? Sull'altalena soffrirà di vertigini? Passerà tutto il suo tempo alle corse? Avrà idee personali sul denaro? È un buon cittadino o mica tanto? Ne racconta di allegre, anche se un po' salaci? La verità, vi prego, sull'amore. E quando viene? Verrà senza avvisare, proprio mentre mi sto grattando il naso? Busserà la mattina alla mia porta o sull'autobus mi pesterà un piede? Arriverà come il cambiamento improvviso del tempo? Sarà cortese o sbrigativo nel saluto? Darà una svolta a tutta la mia vita? La verità, vi prego, sull'amore. Ho letto la più famosa poesia di Winston Hugh Oden, questo grande poeta inglese, questo grande uomo, nato nel 1907 e fin da giovane considerato un maestro. Già a Oxford, quando era poco più quel ragazzo, studioso convinto di Marx e Freud, era l'idolo degli studenti di sinistra. Oden non nascose mai la sua omosessualità. Per lui l'amore era una cosa seria. Era un giuramento per sempre. Poi venne la stagione furente, Berlino 1929, sull'orlo del nazismo, il leggendario amore, amicizia e anche collaborazione artistica con Christopher Isherwood, che su quegli anni scrisse il romanzo Goodbye to Berlin, addio a Berlino, da cui è stato tratto il film Cabaret. Oden e Isherwood insieme viaggiarono e insieme scrissero per il teatro. Nel 1936 ritroviamo Oden in Spagna, dalla parte delle brigate internazionali come guidatore di ambulanza. E poi nel 1939 Oden emigra in America. Sta cominciando la guerra. Aveva già dato. Sapeva cosa stava per succedere. Quanto alla sua bravura non sono certo i premi che fanno i poeti, però quelli che hanno dato lui sono stati sacrosanti, a cominciare dal premio Pulitzer, che vinse ancora molto giovane. Vi leggo un articolo di Natalia Aspesi dove racconta la storia del suo secondo grande amore con Chester Kallman. Si incontrarono al college quando Oden era professore e l'altro studente. E questo è l'articolo di Natalia Aspesi. Fu un'unione molto aperta in cui entrarono e uscirono molti altri amori, ma anche tradizionale, in cui i ruoli venivano comunque rispettati. Come in tanti matrimoni, anche per loro il sesso finì presto, improvvisamente, dopo soltanto 2 anni di estasi carnale. Come in tanti matrimoni, malgrado questa luce perduta per sempre, il loro legame continuò, indistruttibile, per più di 30 anni, e fu solo la morte a separarli. Fu come un matrimonio molto aperto, in cui entrarono e uscirono altri amori, altre passioni, altre avventure, ma anche un matrimonio di convenienza. C'era chi manteneva e chi era mantenuto. Assomigliò a un matrimonio di ragione, sentimento e comunione, perché gli interessi, la lirica, i gatti, i cani, il bere, la poesia, le case con il loro spaventoso disordine diventarono gli stessi. Oggi forse non si sarebbero accontentati di una convivenza riconosciuta e protetta dalla legge, dei famosi Pax, ma avrebbero preteso un vero e proprio matrimonio. On bended knee is no way to be free. Lifting up an empty cup I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Nei primi anni 70, Winston e Chester erano molto invecchiati, molto malandati, pieni di acciacchi, cuore, fegato, ulcere. Erano gonfi, ingrassati, pochi capelli, tante rughe. L'infelicità dell'invecchiare aveva cancellato l'orgoglio della loro grazia e bellezza, che negli anni 40 era stato folgorante. A Oxford, ad Ann Arbor, mitici luoghi di sapienza e spensieratezza universitaria, avevano singhiozzato di tenerezza e cupidigia le studentesse, le insegnanti, le mogli degli insegnanti, che si intenerivano per il fascino scontroso e dolente di Oden e per la splendida giovinezza dello studente Kalman, anche se il solo fatto di essere femmine le escludeva dall'incanto ardente di quell'intrecciarsi di virili sguardi innamorati. Appoggia, amore, il tuo capo assonnato sul mio braccio senza fede. In cenere riducono le febbri e il tempo la bellezza di bambini pensosi, e la tomba mostra quanto sia effimero il bambino. Oden era sbarcato a New York dall'Inghilterra nel 1939 per sfuggire alla guerra. 4 anni prima aveva sposato Erika Mann, figlia di Thomas e sorella di Klaus, per consentirle di fuggire dalla Germania di Hitler, e con lei rimase unito legalmente sino alla morte di lei, incontrandosi ogni tanto in rispettosa amicizia. Oden, figlio di un medico, con una madre anglicana molto religiosa, aveva 31 anni ed era un giovanotto alto, occhi bellissimi, pallido, con le unghie mangiate, i movimenti sgraziati, l'aura di poeta ormai riconosciuto, che in un'epoca in cui i poeti ancora contavano, lo rendeva irresistibile. Arrivò insieme a Christopher Isherwood, inglese anche lui, scrittore anche lui, l'amico degli anni folli di Berlino, con cui ingaggiava la lotta libera durante i loro incontri sessuali, che intermittenti dal 1926 al 38, come ricorda Isherwood nelle sue memorie, Lost Years. Ma Oden, pur signorilmente promiscuo, aspettava il grande amore. Quando viene, verrà senza avvisare, proprio mentre mi sto frugando il naso. Busserà la mattina alla mia porta o là sul bus mi pesterà un piede. Bussò alla porta del suo appartamento, l'8 aprile 1939, 3 mesi dopo l'arrivo in America. Era la matricola del Brooklyn College Chester Kalman. Venuto a intervistarlo per il giornale studentesco. Aveva 18 anni, era figlio di un medico e di famiglia ebrea benestante, biondo, alto, snello, sicuro della sua superiorità, geniale, spiritoso. Oden veramente aveva adocchiato un altro studente, bruno ed etero. Perciò rimase deluso quando arrivò questo biondo ragazzo scopertamente gay. Poco dopo ne era già perdutamente innamorato. Al culmine di una felicità romantica, Oden si mise al piano cantando dalle Valchirie Du bist der Lenz, tu sei la primavera che bramavo. Comprò 2 fedi d'oro, una per sé, una per Chester, e si dichiarò ufficialmente sposato. Per sempre. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. 2 anni dopo, nel luglio del 1941, al culmine di una infelicità furente, nel sonno tentò di strozzare quello che lui chiamava il suo ange gauche, l'angelo sgraziato. Era il primo tradimento e lui pensò di ucciderlo, come Verlaine aveva tentato di assassinare Rimbaud. La nuova passione del famelico Chester si chiamava Jack Lansing, bel giovane inglese bisessuale che adorava Oden, e seppe troppo tardi e con dolore che Chester era il suo amante, anzi il suo sposo. Da quel momento Oden non fece più sesso col suo insostituibile amore, scongiurandolo però di restare per sempre insieme. Segue un certo caos sentimentale e sessuale, con Chester che si stufa anche di Jack e presto si innamora di uno dei tanti marinai della sua vita, e Jack che ruba a Oden il nuovo amante occasionale, e Oden che, come un marito di larghe vedute, cerca di accordarsi civilmente col rivale. Il tempo passava, tra allori poetici, insegnamento, studio, sperpero, quella sarabanda di avventure con ogni studentello o ladruncolo disponibile, e persino con insoddisfacenti ragazze, in quell'ansia di turbolenta promiscuità che gli etero, pur disapprovando, spesso invidiano agli omosessuali. Erano tempi molto spigliati, almeno nelle università e fra intellettuali. Se pensiamo che ancora oggi l'omosessualità è fortemente discriminata, invece alla commissione dell'Università del Michigan che lo esaminava per assumerlo, Winston disse subito: «Mi sembra corretto informarvi che mi piacciono i ragazzi». Fu assunto senza problemi. Una università di prestigio non poteva perdere un così grande poeta per così poco. Qualche anno dopo, il dottor Kinsey, con la sua famosa ricerca, avrebbe dimostrato che soprattutto fra gli studenti le esperienze gay erano molto diffuse, senza danno per il futuro dell'America e dei suoi buoni padri di famiglia. L'ultima casa che ebbero insieme fu un piccolo cottage vicino a Vienna. Non sempre insieme. Chester andava spesso in Grecia, mentre Winston passava da New York a Oxford. Entrambi cominciarono ad avere amanti troppo costosi, che qualche volta finivano in galera. Ogni volta che si lasciavano, per Winston era uno strazio. E allora lo compensava con bei ragazzi di cui si invaghiva anche a lungo, con il successo sempre più vasto che aveva. Però senza Chester si sentiva morto. E la solitudine aveva ovunque il nero affannoso colore della vecchiaia. E poi viene il settembre del 1973, quando erano ancora insieme, a Vienna. Chester andò a sentire Rigoletto. Winston tenne una lettura di poesie e tornò in albergo stanco. Chester, l'amato compagno di una vita di inquieta incompletezza, non era lontano. Ma quella notte Winston morì solo. Aveva 67 anni. Anche Chester morì solo, 14 mesi dopo ad Atene, a 53 anni, dopo aver dilapidato del tutto il suo corpo e quel che il compagno gli aveva lasciato. Non si sa se a quei due funerali qualcuno abbia letto quei bellissimi versi di Oden che nel film di successo Quattro matrimoni e un funerale il giovane degli occhi neri legge in memoria del compagno defunto. Era il mio nord, il mio sud, il mio est, il mio ovest, la mia settimana di lavoro e il mio giorno di festa. Il mio meriggio, la mia notte, la mia parola, il mio canto. La guardiana del faro. Dopo il naufragio della Concordia, molti, moltissimi hanno vituperato il comandante Schettino, che dopo aver causato il disastro si è messo in salvo ed è stato il primo ad abbandonare la nave. Nelle sue dichiarazioni si è dato sempre delle ragioni per giustificarsi, mai che si sia messo le mani in testa spontaneamente dicendo «Dio che ho fatto». E poco a poco vedo che stanno sorgendo anche dei simpatizzanti di Schettino. Io ho paura che in un certo senso abbia aperto una strada, che abbia legittimato tutti gli responsabili d'Italia. Fra poco forse diventerà un mezzo del pensiero. Un giorno o l'altro magari ce lo troviamo su YouTube, come Terry De Nicolò, l'escort barese che teorizzò che le donne devono vendersi, altrimenti sono delle sfigate. Ecco, magari ci compare il comandante Schettino a fare una lezione sulla bontà di affondare una nave e poi mollarla, se no si è degli sfigati. E se non sei d'accordo, sei un moralista. Ora, lasciamo perdere quella odiosa accezione che ha preso questa parola significando ipocrita che dice una cosa e ne fa un'altra. Ma io credo nella moralità. La moralità è una stella polare. È il miraggio di un comportamento ideale. Un modo di agire che ti sembra giusto e bello. Poi magari non la raggiungi mai, però ci provi. Ci provi perché sai bene cosa dovresti fare per piacere a te stesso. In una trasmissione di Melog, subito dopo il fatto, quando tutti erano scandalizzati dal comportamento del comandante, Nicoletti aveva invitato a non sentirci tutti dei Garibaldi, a farci un esame di coscienza e a chiederci ma quanto c'è di Schettino in me. Un richiamo alla moralità, perché Nicoletti è un aristocratico dello spirito e ha orrore della unanimità che è alla base di ogni linciaggio. Però da allora è successa una cosa paradossale. Alla fine, chi finisce sotto accusa è il capitano De Falco, autore della famosa telefonata in cui lo invita a tornare a bordo. I nudi fatti. Schettino, per fare il bullo, finisce sullo scoglio. Una falla di 70 metri, abbandona la nave e, dalla capitaneria di porto, il comandante De Falco, al telefono, gli ordina fermamente di tornare a bordo. Ha capito quello che è successo, vorrebbe in qualche modo arginare la catastrofe. Questa telefonata fa il giro del mondo. La frase «salga a bordo, cazzo» diventa uno slogan. La stampa Di prepotenza gli appiccica il titolo di eroe e lo contrappone a Schettino. Il bene e il male, il vizio e la virtù. Ora, il seguito naturale, secondo una logica mediatica, sarebbe che adesso De Falco, tutto tronfio, finto modesto, va a fare il giro delle televisioni cavalcando il personaggio che gli hanno inventato. E i giornali, mentre cercano di ammaliarlo con la sirena mediatica, sono già pronti a saltargli addosso, appena poi si sarà lasciato tentare e sarà diventato una mascherina del teatro televisivo, perché non ci si aspetta altro. Invece no, De Falco li delude. De Falco deraglia dalla logica mediatica e preferisce la logica, semplicemente. Preferisce la dignità. Si ribella con forza a questo titolo ridicolo. L'unica comunicazione che lui ha fatto ha detto: ma che volete, ma quale eroe? Dice: io ho fatto una telefonata. Gli eroi sono quelli che stavano sul posto, che hanno salvato la gente, fa i nomi e dice anche le azioni che hanno compiuto. Dopodiché non parla più, però resta un bersaglio. Mi è dispiaciuto tantissimo leggere l'attacco di un uomo intelligente e coraggioso che stimo, Massimo Fini, di cui tra l'altro la sua ammirevole biografia di Nietzsche è tra i miei libri più cari. Fini scrive che più del naufragio, per lui, è stata rabbrividente, parola testuale, la telefonata di De Falco. Cioè, più rabbrividente dei 30 morti. Perché, secondo lui, De Falco faceva sfoggio di virtù. Ma cosa dice? Più rabbrividente dei morti. E visto che De Falco è stato impeccabile, si attacca a una frase della moglie, una frase di grandissimo buonsenso. È un paese tale che uno che fa il suo dovere diventa un eroe, che è la pura verità. Allora, Fini, tuona. Retorica dell'antiretorica. Adesso io non so come possa accusare di retorica qualcuno lui che invece fa della retorica primaria. Io mi chiedo quanta retorica ci vuole per affermare che quella telefonata gli fa più impressione dei 30 più morti. C'è una specie di invidia della virtù. Perché dà fastidio De Falco? Adesso è diventato un reato in quella che Travaglio chiama la scomparsa della logica. È diventato un reato condannare severamente un comportamento ignobile, una irresponsabilità criminale. Uno che per leggerezza usa una nave con 5.000 persone come un ragazzino burlo usa il motorino e che provoca, oltre alla strage, anche un disastro ambientale, cioè una strage nel tempo. Fra un po' qualcuno con le mutande in testa verrà a gridarci che siamo dei bacchettoni se condanniamo un comportamento così dannoso. Massimo Fini è un vero militante della rettitudine. Ha dedicato la vita a scrivere saggi, libri e anche nella vita a comportarsi rettamente. Perché poi, se un altro si comporta rettamente, lo giudica una specie di simulatore? In Melog del 23 gennaio Gianluca Nicoletti ha fatto intervenire Silvana De Mari, notevolissima scrittrice di fantasy, medico-chirurgo. Visto che è urgente rifondare le basi del senso del nostro vivere civile, io ho il gran piacere di farvela risentire, ringraziando per il prestito Gianluca Nicoletti. È il chirurgo, signori, come il capitano di una nave, è un sovrano assoluto che ha il 100% della responsabilità. A me è capitato di dirigere sale operatorie o pronti soccorsi dove ho avuto da direzioni amministrative e sanitarie ordini che io giudicavo criminali. Quando io ho cominciato nel 1976 non esisteva l'AIDS, l'ordine in pronto soccorso era di sciacquare i ferri tra un paziente e l'altro nel citosi d'azzurro, non devi sterilizzarli, avrei contagiato l'epatite B, ho rifiutato di eseguirli. Il paziente aveva a che fare con me, io gli avevo garantito che avrei fatto di tutto per salvare la sua vita e la sua salute. Qualsiasi ordine sia arrivato dalla costa è irrilevante. L'unico sovrano assoluto era il capitano Schettino. Lui aveva il patto con il suo equipaggio e con ogni singolo passeggero che doveva usare tutta la sua forza e tutta la sua intelligenza per proteggere le loro vite. Signori cari, io ho fatto 3 crociere per motivi di lavoro. L'inchino è una roba che si fa alle 5 del pomeriggio quando i passeggeri sono fuori e guardano e dicono: oh, che bello l'isola di Ponza, e si fa in sicurezza. Tra fare l'inchino in sicurezza e massacrare decine di persone e perdere una nave, c'è la stessa differenza che c'è tra un chirurgo intelligente e un chirurgo criminale. Non è che non facciamo più la chirurgia per evitare di ammazzare la gente, ma per Dio, ci avete le mappe e ci avete il GPS e ci avete anche altre cose che in questo momento sono infinite, per 2 euro vi tirate giù, eccetera, eccetera. La seconda cosa sono gli scrittori fantasy. E la letteratura fantasy è l'unica letteratura che parla di coraggio, di lealtà e di cavalleria. Cosa caspita è la cavalleria? Schettino è figlio del postmoderno. Garrone non abita più qui. La regola d'onore le abbiamo rovise. Il coraggio adesso si chiama sindrome dell'eroe. perché qualsiasi cosa noi pensiamo della manovra che ha portato al disastro, qualsiasi cosa noi pensiamo del ritardo con cui è stato dato l'SS, ci sono due punti su cui non c'è nessun dubbio. Schettino è sceso a terra mentre ancora aveva dei passeggeri a bordo, e poi lui, maschio, è sceso a terra mentre c'erano ancora a bordo donne e bambini, prima le donne e i bambini. Questa è la regola su cui è basata tutta la nostra civiltà, è scritto nel Talmud. Gli uomini hanno il 10-15% in più di noi di forza muscolare, perché la loro forza muscolare deve servire per proteggerci. Gio Schettino ha portato in salvo il suo torace inutilmente palestrato. In tutti i casi, gli uomini come mio marito, mio padre, i miei nonni, anche mio figlio, non sarebbero scesi da quella nave fino a quando c'era una donna e un bambino a bordo. Io, in quanto medico, non sarei scesa da quella nave fino a quando c'era una persona a bordo. Il coraggio non è vero che chi non ce l'ha non se lo può dare. Il coraggio deve essere insegnato. Il coraggio va coltivato. Il coraggio, come l'ottimismo, è frutto di un'autodisciplina eroica. Chi non ha coraggio, vada a fare l'impiegato del catasto. Nessuno ha messo la pistola alla testa di Schettino. Tu devi essere lì per dare cura, tu devi essere lì per salvare gli altri. L'importanza che Schettino ha dato alla vita degli uomini del suo equipaggio, alla vita dei passeggeri, è zero. Mi ha molto stupito scoprire che Schettino ha una moglie e che aveva un amante forse su quella nave. Mi ha lasciato esterrefatta di quanto poco una donna si possa accontentare. Mi piace molto il tono di Silvana De Mari. Sì, è un tono da insegnante che alza il dito con autorevolezza, che lo può fare perché ha da insegnare. Lei parla con una chiarezza ammirevole di ciò che è la responsabilità e non si preoccupa certo di non essere originale. Ringrazio per il prestito Gianluca Nicoletti, le cui trasmissioni da più di 20 anni mi ispirano. Qui capitaneria di porto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.